America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Una strage ha turbato il fine settimana degli americani. Avrete letto sui giornali, sentito molti dettagli di cronaca alla radio, alla televisione. Io stesso ho parlato ai microfoni di Radio 24 proprio ieri, raccontando un po' gli ultimi sviluppi di questa tragedia. Una tragedia, riassumo, che ha visto un giovane di 22 anni colpire un deputato americano, Gabriel Gifford, una donna di 40 anni, mentre faceva un comizio in Arizona. Molti morti. Per ora Gabriel Gifford si è salvata. Tra i morti una bambina di 9 anni che era nata l'11 settembre del 2001 e che rappresentava, così nel suo libro di scuola dove c'era la sua fotografia, la speranza per il futuro, essendo nata in una giornata così tragica. Ebbene, il destino l'ha portata ad essere uccisa proprio in una circostanza altrettanto drammatica, in un atto di terrorismo. Ho con me ai microfoni di America 24 Maria Samminiatelli, il responsabile dei servizi nordamericani dell'Associated Press, la principale agenzia di stampa americana. Non vorrei darvi più molti dettagli di quello che è successo, li conoscete già. Vorrei focalizzarmi invece su un aspetto molto specifico, e cioè sul dibattito politico che ha portato a questo, sul fatto che i toni del dibattito politico in America siano stati talmente feroci, aggressivi, duri e tesi da aver creato un'atmosfera in cui uno squilibrato può prendere una pistola e andare ad ammazzare un politico. Prima però vorrei chiedere a Maria Samminiatelli le ultimissime notizie sulle condizioni della Gifford. Allora, la deputata Gifford rimane in condizioni critiche all'ospedale a Tucson, Arizona. Pare che ci siano ragioni di sperare, perché risponde alle parole dei medici, quindi evidentemente lei c'è e capisce. Ecco, c'è una questione politica che si è aperta dopo questo tentativo di omicidio, dopo questa strage in realtà, perché poi altre 6 persone hanno perso la vita, 18-17 feriti, e in particolare c'è una forte critica che sta crescendo nei confronti di Sarah Palin. Sembra diventare un po' lei il così responsabile indiretto di questa tensione che si è venuta a formare in America, in questo dibattito politico sempre più astioso, teso, cattivo da ambo le parti. La ragione è da ricercarsi in questa definizione che a un certo punto fece la Palin quando mise sul suo sito il fatto che alcuni deputati, 17 deputati, dovevano essere nel mirino, e c'era la foto della deputata Gifford con appunto un tipico disegno di mirino. C'è un documento che secondo me dà abbastanza i brividi, e cioè una sorta di avvertimento preventivo di Gabrielle Gifford, la deputata che è stata colpita, a Sarah Palin. Ascoltate questa registrazione, perché è proprio la voce di Gabrielle Gifford che parla a Sarah Palin e gli dice: per cortesia, non andiamo al di là della decenza. Sentite Gabrielle Gifford appena poche settimane fa. We need to realize that the rhetoric and firing people up and, you know, even things, for example, we're on Sarah Palin's targeted list, but the thing is that... Vi traduco le parole della Gifford. Dice testualmente: siamo sulla lista di coloro nel mirino di Sarah Palin, ma la cosa è che il modo in cui siamo descritti mostra il mirino di una pistola sul nostro distretto. Quando le persone si comportano in questo modo, debbono realizzare che ci sono delle conseguenze per le loro azioni. Sono sicuro che la Palin non intendesse in alcun modo incitare qualcuno a prendere una pistola e andare a sparare contro Gabrielle Gifford, però le ultime parole della Gifford sono terribili per la Palin: conseguenze per le loro azioni. Qual è la tua sensazione? Si troverà in difficoltà la Sarah Palin con questo sviluppo? Lei nel futuro prossimo si troverà sicuramente in difficoltà, e non ci sono immediate ragioni di sperare che il tono cambi, visto che ieri sera una delle sue top advisors ha dato un'intervista in cui diciamo, rifiutato qualsiasi responsabilità. Ecco, ti interrompo un attimo. Sentiamo questa intervista che ha rilasciato la Rebecca Mansour a Tammy Bruce. Tammy Bruce è la conduttrice di un programma radiofonico, devo dire un personaggio alquanto bizzarro, anche lei, una donna che si presenta in giacca di pelle, e la sua fotografia è quella del microfono davanti a lei sulla sinistra, ma si appoggia con l'altra mano con una pistola in mano, quindi sicuramente non è così un messaggio gradevole e pacifico. Sentiamo cosa da dire intanto la Tammy Bruce. Gun and a microphone. We all know that the liberals, there's something wrong with them. That is a theme that we deal with on my program. Having come from the left, I do my best to describe to you what's wrong with them. And the reaction to this mass murder. You know, mass murder, just like on September 11th, penso che ovviamente in America c'è la libertà di parola, quindi penso che ognuno abbia diritto di dire la sua come gli pare. Detto questo, ci sono responsabilità. Col fatto che anche ci sono tanti americani in difficoltà economiche, questi media un po' più estremi, secondo me, danno voce a questi sentimenti un po' di rabbia. Beh, ti sembra normale che un conduttore di un programma radiofonico si presenti con la pistola in mano? No, non mi sembra normale, è però legale. Sì, ecco, però come dicevi tu ci sono poi delle responsabilità, ma da quel che diceva Tammy Bruce qualunque responsabilità veniva assolutamente respinta, cioè questo si può fare, si può dire quello che vuole, noi non ci prendiamo nessuna responsabilità. Sentiamo anche Rebecca Mansour che respinge anch'essa le responsabilità. Dice assolutamente il responsabile è quello che ha sparato, noi non siamo responsabili in alcun modo, però insomma, come dicevi tu poco fa, il danno per Sarah Palin in qualche modo c'è stato. Allora, loro all'epoca fecero questa mappa con tutti i distretti elettorali, stampando mirini su ogni distretto dove c'era un democratico all'elezione, inclusa la GIP. Facendo una cosa del genere si imposta un dialogo in un certo modo, e sicuramente la Sarah Palin non intendeva fomentare una strage. Detto questo, a certi toni vengono con delle conseguenze. Questa è una, purtroppo. Ovviamente il responsabile è uno squilibrato, ovviamente probabilmente uno che lavorava da solo o forse con un'altra persona, però comunque impostando il dialogo in un certo modo poi si crea un clima molto molto assioso. Se non ammettono un po' di responsabilità, non per la strage ma per comunque un clima assioso, ne soffriranno un po' le conseguenze a lungo termine, non tanto per la Giffords ma quanto per anche 6 civili, incluso una bambina di 9 anni. Ecco, abbiamo ai microfoni di America 24 anche Giuliano Ferrara. Buongiorno, Giuliano. Buongiorno, buonasera. Pensi che la Sarah Palin possa davvero avere qualche problema sul piano politico guardando in avanti? Forse sì, perché il clima incandescente costruito nella retorica così bellicista dei Tea Parties, naturalmente insomma sembra fatto apposta per sollevare dubbi dopo un episodio così drammatico, dopo una strage, un tentativo di ammazzare una deputata come Gabrielle Clifford. Devo dire però la verità, basta rifletterci un momento, c'è una venatura apocalittica nel profondo americano, in particolare in Arizona, ma non solo in Arizona, che ha portato a sparatorie, stragi come questa d'altra parte del tutto insensate, e che ha portato a forme demoniaco-angeliche di vendetta sociale, per esempio l'uccisione dei medici abortisti, il tentativo di bloccare con la violenza l'attività delle cliniche dove si interrompe la gravidanza. Insomma, c'è una vena apocalittica che precede di molto Sarah Palin, i Tea Parties e la loro polemica politica. Insomma, penso che potrà superare questa crisi perché sono in grande sincerità convinto che è il gesto appunto apocalittico, diciamo, di un pazzo. Ecco, è emerso un personaggio, è emerso lo sceriffo della contea dove è accaduta la strage, il quale a un certo punto scorato ha detto: qui il dibattito politico è troppo arrabbiato, è troppo estremo, si usano termini che una volta non si usavano. Un signore un po' anziano dice: questa non è l'America che conoscevo io, dove il dibattito politico avveniva su toni ben diversi. Ecco, condividi questa posizione non soltanto per l'America, ma anche, se vuoi, per l'Italia, per altri dibattiti politici? Siamo andati troppo in là? C'è la possibilità di tornare indietro oppure ormai it's the name of the game, come si dice in America. Questo non lo so se ci sia la possibilità di tornare indietro o no. Quello che è sicuro è che l'analisi è giusta, cioè la storia della politica in Occidente è in questa fase una storia di perdita dell'equilibrio. Le posizioni di establishment tendono a diventare minoranza, ad essere trascurate, opacizzate, a finire diciamo dietro un sipario di ferro che è quello invece di tendenze populiste, massimaliste, radicali, di ogni genere, di ogni tipo, sia a destra che a sinistra. E questa non è una buona cosa per la politica. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. L'11 aprile uscirà Dream Service, il primo album della Bottle Top, un progetto di beneficenza di numerosi cantanti, musicisti di fama internazionale, tra cui ci sono i membri di Super Furry Animals, della Bottle Top Band, Fall of Rome. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.